AVS Media Demo. Cioè un portiere di calcio precario che non va più d'accordo col sistema calcistico, senza entrare troppo nei particolari, che è delicata la questione. Perché? Perché hai scelto di non fare più il portiere o comunque preferisci adesso fare il pittore? AVS Media Demo. Esprimermi liberamente, indipendentemente, senza scendere a compromessi, sentirmi libero di esprimere un malessere esistenziale che è ovviamente una società che reprime. AVS Media Demo. Il pensiero non va bene. Io sono stato un portiere molto bravo, vicinissimo alle categorie professionistiche. A un certo punto ti hanno dato il ben servito, ma non tanto per le tue capacità, ma per un altro problema. Qual era? AVS Media Demo. Non avendo un procuratore che mi coprisse le spalle, allora non hanno avuto problemi a demoralizzarmi e mandarmi via. Perché c'è bisogno di un procuratore nel calcio? Anche nel calcio dilettantistico, semiprofessionista. AVS Media Demo. Anche nella pittura la prassi è quella di avere un critico ad arte che ti prende nel giro. Cioè la prassi è questa, bisogna avere sempre qualcuno, un agente che ti inserisca in un ambito importante. AVS Media Demo. Storia. Di calciatori indignati è piena la letteratura. Tu stasera stai con l'indignato, perché? Perché non va bene. Io questo mio pensiero che è semplicissimo. Mi sembra di vedere AVS Media Demo. Il governo che i potenti rubano i soldi e poi tutti questi privilegi che hanno e noi per portare devo riformare il pensiero. AVS Media Demo. Bisogno, penso che a quello ti riferisci, per portare, per cercare di raggranellare un reddito. No, sì, il pensiero è quello di il mio pensiero sono un po' Va bene, è l'emozione del registratore, puoi parlare, tanto sono microfoni. AVS Media Demo. Ha pulito il mondo del calcio, persino quello dilettantistico, l'informazione, tu come lo vedi? Ma sì, se devi parlare di bombini, ora no, spogliatoi, ora partite combinate. No, vabbè, cioè non voglio... AVS Media Demo. Però sì. Non voglio ora affondare il coltello nella mia. Vabbè, grazie.